Radio 24 Reportage. La Terra dei Fuochi, una tragedia sotto gli occhi di tutti, di Valeria De Rosa. Dal cielo, Napoli è uno spettacolo. Tra il mare e le colline, una miriade di case che seguono il sole, che guardano l'acqua aspettandosi sempre qualcosa di buono. L'orgoglio lo intuisci dall'alto, l'odore no, ma te lo immagini, perché la spazzatura ammassata ai bordi delle strade che accompagnano l'asse mediano, quella la vedi anche ad alta quota. Di roghi e fumo non c'è traccia, ma a metà giornata è tardi per quelli. Chi li accende lo fa di notte, al mattino c'è già immondizia nuova da bruciare la notte che verrà. Succede in queste terre, comprese tra Napoli Nord e la provincia di Caserta. Sottoterra ci sono i rifiuti, sopra i cumuli abbandonati, ai margini di quelle stradine che spesso non sai dove vanno a finire, e poi le ecoballe accatastate a Taverna del Re. Noi camminiamo sui rifiuti, me lo disse una giovane avvocato anni fa. Le discariche abusive censite sono oltre 2000, ma quante altre ce ne siano sotto nessuno lo sa. La Campania Felix, martoriata, sfregiata, costretta a coprire, a inghiottire ogni genere di nefandezza. Io ho giocato in quelle terre, io ho visto quelle terre quando sono ricche, fertili e belle, ancora adesso. Lì ancora adesso nasce la frutta, che è un miracolo. Quella frutta va protetta, vanno fatte le analisi, il nostro territorio è recuperabile. Con gli interventi di bonifica che si devono fare, con controllo pubblico, adesso ci vuole l'esercito a controllare quelle zone, perché non è cosa di poco conto. Stop, fermare gli incendi, fermare gli scarichi abusivi e poi si inizia una bonifica sotto stretto controllo di cittadini, comitati e lo Stato, e i terreni sono assolutamente recuperabili. Lui è Raffaele Del Giudice, per anni a capo di Legambiente Campania, ora presidente di ASIA, l'azienda Servizi Igiene Ambientale di Napoli. L'ho visto commuoversi guardando camminare per le strade del capoluogo le migliaia di persone che sabato 16 novembre hanno sfidato la pioggia battente pur di urlare con gli occhi la propria rabbia. 70.000, forse di più. Vogliono le bonifiche, vogliono la mappatura dei siti inquinati, non chiedono, questa volta vogliono e non se ne andranno. Da dove viene? Da Caivano. Perché è venuta? Perché il problema è molto grande. È un bambino piccolo. Sì, altri due a casa, più grandi. Non ha mai pensato di andare via? No, se vado via che risolvo, niente. Da dove vieni? A Fragola. Perché sei qua oggi? Perché penso sia importante manifestare per un problema sorto come quello della Terra dei Fuochi ormai da 20 anni, e soltanto oggi tutti ne sono venuti a conoscenza. Tu pensi mai che un domani magari il tuo futuro non sarà qui? Sì, io lo penso, però a volte è meglio restare per cambiare le cose piuttosto che andare via. Molti di loro hanno lasciato a casa qualcuno malato, tumore, cancro, da queste parti non si nomina, si dice tiene una brutta malattia. Le esenzioni per patologie tumorali sono raddoppiate, anche triplicate in alcuni centri dell'Interland. Sono stati i medici per l'ambiente a mettere assieme i dati, perché ricavare i numeri dagli uffici sanitari competenti è impossibile. Il registro dei tumori, previsto da una legge del 2002, in Campania è un buco nero. C'è, ma non c'è. Nella ASL più indebitata d'Italia si spendono circa 300 milioni solo per curare le neoplasie, una cifra molto più alta della media nazionale. Sul nesso causa-effetto si combatte una guerra tra chi lo afferma e chi lo nega. Gli ultimi dati dell'Istituto Pascale sul decennio 98-2008 dicono che in provincia di Napoli l'incremento dei tumori è stato del 47% negli uomini e del 40% nelle donne. A Caserta del 28,4% negli uomini e del 32,7% nelle donne. In Italia i tassi sono rimasti stabili. Di studi se ne contano a decine, commissionati dalla Protezione Civile, dall'Istituto Superiore di Sanità, analisi condotte da ricercatori e medici. Sarà un fiume in piena, un fiume di speranza, di dignità, ma per la verità è anche un fiume di disperazione. Se le persone vengono è perché sono arrivate veramente allo stremo. Bisogna cambiare passo. Ormai le cose che bisognava sapere le abbiamo saputo, per tanto tempo si è taciuto, per tanto tempo si è negato l'evidenza, per tanto tempo per la verità tanta gente anche ci ha mentito, ci ha ingannati, ci ha traditi, e adesso per la verità veramente basta. Don Maurizio Patriciello è un parroco di Caivano, provincia nord di Napoli. Forse non immaginava che prima o poi tanto clamore gli sarebbe arrivato addosso. Un anno fa il prefetto di Napoli lo riprese pubblicamente. La signora voleva convincermi che questo problema non c'era, io le ho detto che invece c'è. Scusi, di quale signora sta parlando? La signora. signore è un prefetto, sì, un prefetto della Repubblica Italiana. Pensavo signore era... No, lei lo sa bene, quindi... Ah, signor prefetto, non era mia intenzione offesa, un po' più... La offesa, è offesa anche me, e tutti quanti, con i sindaci e completi. Immagini se lei si rivolge al sindaco dicendo signore. I cittadini che sono offesi da anni, i cittadini che sono offesi da anni. Anche col bene farete a parlare a un prefetto chiamandolo prefetto. Don Patriciello rispose, e con lui tutti i cittadini. Ora non è più consentito ignorare, perché tutto sotto gli occhi di tutti. Ora lo Stato deve andare a vedere, non guardare distrattamente. Ora che le parole di Carmine Schiavone le hanno lette tutti, ora che tutti sanno che lo Stato era stato avvisato già nel 97, tra 20 anni potrebbero essere tutti morti. Si è rotto il rapporto di fiducia. Lo Stato deve in questo momento darci un segnale, perché è dal 91, dagli anni 80, che le ecomafie hanno organizzato un servizio che è servito a smaltire gran parte dei rifiuti del nord qui. Quindi c'è stato un combinato disposto di pezzi deviati dello Stato che hanno dato una mano. Ci sono degli atti che dicono queste cose. C'è un combinato disposto di un dispositivo legislativo assolutamente inefficace. Tutto quello che poi è stato fatto sotto l'onda forte d'urto dei comitati, delle associazioni, ma si arrivava sempre dopo come è stato. Ecco, questo adesso non è più il momento di portarla avanti, perché in alcune zone non solo si è, come dire, decretato che un pezzo d'Europa venisse utilizzato da parte della Camura per smaltire i rifiuti del nord. Io mi aspetto da Confindustria del nord che davvero ci dia una mano a individuare le mele marce. Mi aspetto che ci sia l'equiparazione di questi reati al reato di mafia. E soprattutto che venga introdotto immediatamente nel codice penale il delitto ambientale. La legge femmina da 17 anni in Parlamento. Regione agricola la Campania. Scavare la terra e seppellire la frutta in più era un'abitudine. La Camorra non ha inventato nulla, ma come sempre ha saputo modificare la storia e tradurla in profitto. Su richiesta, perché i rifiuti speciali sono arrivati dal nord, così come dal nord è arrivata la richiesta di smaltirli. I rifiuti speciali sono il cancro di queste terre, alimentato dall'uomo e ignorato dall'uomo stesso, e non sarà un altro inceneritore a guarirle. La domanda è, e tutti si devono fare, perché sono stato costretto ad avere un mostro come Acerra e perché, nonostante io disponga di un mostro come Acerra che brucia quanto tutti e sei gli inceneritori dell'intero cantone di Zurigo, io non riesco a uscire dalla situazione dello smaltimento dei rifiuti. Antonio Marfella, medico, dirigente responsabile al Pascale, parla e non si dà pace. Acerra, Nola, Marigliano, il triangolo della morte. Nel 1987 un decreto del Ministero dell'Ambiente definiva Acerra territorio ad alto rischio ambientale. Le grandi industrie avevano sversato per anni. Decine di casi di leucemie e linfomi. Giuliano, Quagliano, Villaricca, triangolo dei tumori, neoplasie che vengono dalla terra e dall'aria. E torniamo ai roghi, incendi appiccati per disperazione e per cancellare le tracce. Appiccare il fuoco vuol dire cancellare chimicamente la traccia, perché la combustione modifica chimicamente l'elemento e quindi non si è in grado, anche con delle eventuali analisi, di risalire al produttore del rifiuto speciale. L'altra è un po' più sofisticata, perché serve a smaltire, a recuperare metalli. Ma l'altra ancora serve come antidetonante. Se io appicco il fuoco ad una lattina di solventi, c'è il rischio che salto in aria. Lo sverso sulle balle di abiti usati, lo sverso sui vecchi materassi, e questo fa da stoppaccio, da antidetonante, quindi brucia per tutta la notte come una candela. Smaltisco abusivamente i solventi o altro materiale e non rischio di saltare in aria. Ecco, questo suggerimento, diciamo, tecnico è stato dato sicuramente dai famosi prestanome, da quell'area grigia di intelligenze, no, che sono a soldo delle ecomafie. La gente muore, eppure l'agricoltura muore, uccisa dai rifiuti e dalla paura, paura di mettersi nel piatto il veleno. Ma contadini e allevatori si stanno ribellando, fanno analisi, controlli, tracciano i prodotti, li certificano. Non tutto è perduto. Andre, che vuoi fare? Ecco, se niente. Pure che queste cose niente, eh? È sempre così niente. Non teniamo che mangiare, è così niente. Ci manca il necessario. Cose niente. Ci negano il diritto della vita. E cose niente.